Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera ovviamente parliamo di economia, ma parliamo soprattutto di economisti. Ne parliamo con Roberto Fini. Buonasera Roberto Fini. Buonasera. Roberto Fini collabora da molti anni alla cattedra di macroeconomia presso l'Università di Verona. È presidente per l'Italia dell'Associazione Europea per l'Educazione Economica e ha scritto un libro in difesa degli economisti, edito da Oepli, Gli economisti, indovini o scienziati, come e perché a volte ci azzeccano. Roberto Fini, è un libro in difesa appunto degli economisti? Sì, è in difesa degli economisti. La categoria degli economisti è ovviamente molto diversificata, certo. Quindi c'è chi va difeso e c'è chi va accusato. Gli errori ci sono stati, ma direi più che degli economisti dell'economia, della politica economica. Gli economisti, molti di loro perlomeno, hanno elaborato teorie intelligenti ed utili, poi magari superate dai fatti, certo. Però la difesa in questo momento va fatta. Ecco, ma però vengono accusati gli economisti di non aver saputo prevedere la crisi economica, di non aver saputo indicare le soluzioni per la crisi economica, al massimo vengono assolti perché sanno spiegare perché hanno sbagliato le previsioni. E quindi in un certo senso gli economisti sono sul banco degli imputati, sono sul banco degli imputati per tante ragioni, anche se poi anche loro sono degli osservatori più che dei protagonisti. Sì, in realtà alcuni economisti, come al solito si cita Rubini, ma ce ne sono altri, avevano previsto la crisi anche in tempo utile per porre rimedio. Ce ne sono stati altri, Rajan, che attualmente è governatore della Banca Nazionale Indiana. Insomma, alcuni economisti avevano previsto più o meno giusto, molti altri no. Le previsioni economiche sono ovviamente molto difficili e però molto delicate, poi molto spesso i governi si affidano a quelle proiezioni o a quelle previsioni per poter prendere qualche decisione importante, però direi che insomma la difesa, ripeto, va fatta, e va fatta non d'ufficio ma in maniera intelligente, sensata e senza sconti. Ecco, ma il sottotitolo di questo libro, Come e perché a volte ci azzeccano, sembra proprio che quasi l'economia sia un gioco matematico enigmistico più che una scienza esatta. Non è una scienza esatta. Chi l'ha voluta trasformare in scienza esatta ha fatto degli errori clamorosi. Io qui non cito molti errori, cito le situazioni invece in cui gli economisti ci hanno azzeccato in qualche modo. Penso che ne scriverò un altro che intitoleremo Lucciole per lanterne, proprio dove gli economisti hanno sbagliato di più e molto spesso avendo evidentemente tutti gli elementi per non sbagliare, o ecco, molti elementi. Questo libro è anche un po' un racconto, direi molto, molto leggero, ma allo stesso tempo approfondito un po' della storia degli economisti. Il nome che si ripete più spesso è quello di Keynes, se lo merita? Sì, se lo merita. Non è l'unico. Io ho cercato di prendere in considerazione sia economisti di area keynesiana, compreso Keynes naturalmente, sia di area anti-keynesiana. Molte analisi sono contrastanti, però la profondità del metodo è la cosa che forse può interessare di più. Keynes se lo merita, ma per citare autori assolutamente non keynesiani, se lo merita von Hayek, Friedman, autori che sono stati ferocemente non keynesiani, eppure hanno detto delle cose assolutamente sensate e utili nel dibattito. Ecco, quindi ci sono delle diverse scuole economiche appunto keynesiane, anche se molto spesso si dice che Keynes forse si rivolta nella tomba quando sente alcune teorie espresse dai quelli che si dichiarano suoi discepoli. Sono d'accordo. Quindi, ecco, in un certo senso anche i fondatori delle scuole economiche non sono riusciti a difendere, perché poi non potevano, anche per questioni anagrafiche, le loro teorie. Il mondo è andato un po' per la sua strada. Sì, in particolare, se vuole, la scuola keynesiana ha fatto degli errori, morto Keynes, ha fatto degli errori di supponenza. Ha immaginato che tutto potesse risolversi con la teoria, con l'applicazione della teoria keynesiana, e poi è arrivata la batosta degli anni 70, quando ci si è accorti che la politica economica espansiva non era necessariamente l'unica da applicare. Probabilmente Keynes, a partire dagli anni 50, si sarà rivoltato diverse volte nella tomba. Ecco, perché appunto lui prevedeva un intervento pubblico limitato, un intervento pubblico che correggesse alcuni momenti congiunturali, non un intervento pubblico così invasivo come c'è stato, con tutti i problemi conseguenti, come quello soprattutto dei debiti, che certo sono i problemi che tra debiti pubblici e debiti privati hanno fatto esplodere la crisi del 2008, vista da un economista. Anche per andare un po' al di là di questo libro, siamo veramente tornati a crescere? Abbiamo toccato il fondo del barile dopo la crisi del 2008? Non lo so, e se lo sapessi gliela venderei come notizia. In realtà mi sembra di sì, mi sembra che i segnali siano verso una possibile soluzione, però io eviterei di essere troppo ottimista, purtroppo. Primo, perché l'Italia fra i vari paesi è uno dei più fragili. Secondo, perché comunque non abbiamo certezza di alcuni aspetti delle politiche economiche dei paesi che tirano e che funzionino anche nel prossimo futuro. Direi di sì, se non fosse per un eccesso di prudenza. Quindi, ecco, essere prudenti è sempre bene. Quale scuola di pensiero, guardando appunto gli economisti, forse bisogna prendere? Forse un po' tutte, sì, hanno tutte qualcosa di buono. Sì, direi che senza essere eclettici, ma insomma, il ragionamento che fa da sfondo al libro è che è bene prendere tutto in maniera molto, molto laica e molto soft. Quello che a mio avviso manca e che sembra essere carente per le analisi prossime è un riferimento alla storia economica e alla storia del pensiero. Ecco, approfondire la storia economica è qualcosa di importante, di fondamentale, una scienza triste, quando è stata definita l'economia, come lei, professor Fini, ricorda proprio all'inizio del suo libro, ma ha cercato in questa scienza triste di renderla un po' più attraente. Basta leggere alcuni titoli dei capitoli di questo libro: Storie di Rospi e di Bidoni, L'economia del pescatore bretone, Bistecche, Merluzzi e Pasticceri, Giocare seriamente, Il grande mistero, La democrazia in deficit, Di regine, Babysitter e Ketchup, e per concludere con Il vostro salotto, voi e la natura dell'impresa. Questi sono i capitoli di questo libro, Gli economisti, indovini e scienziati. Si è un po' divertito a scriverlo, professor Fini? Sì, io mi diverto. È un po' faticoso scrivere facilmente. È più facile fare un paper scientifico, scriverlo, poi certo, quello che c'è dietro è ovviamente più complicato. Scrivere facilmente e per un pubblico non di economisti è faticoso. È faticoso, però è anche gratificante, perché appunto per fare opera di divulgazione. L'economia è qualcosa, si dice spesso, se noi non ci occupiamo di economia, l'economia si occupa di noi. Quindi è bene che ci occupiamo un po' di economia. Se riusciamo anche un po' a divertirci, forse è meglio. Sì, certamente. Quindi concludiamo con questo incontro con Roberto Fini, ricordando il suo libro Gli economisti, indovini o scienziati, come e perché a volte si azzeccano, della collana Microscopi, edito da Oepli. Sono 190 pagine per 11,90 euro, un libro di divulgazione, un libro che racconta anche la storia dell'economia in maniera, come dicevamo, molto semplice, molto agile, qualche volta anche divertente, anche se l'economia spesso ci fa più soffrire che divertire. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, ringrazio anche Filippo Regi in regia e vi ricordo che l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.